9 in punto. La politica nel tunnel. Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti. Oggi, più avanti nella trasmissione, tra poco insomma, ci occuperemo della questione dei bonus ai manager, soprattutto ai manager delle banche. Ieri, come sapete, l'Unione Europea ha deciso di rinviare la decisione per cercare un accordo con la Gran Bretagna che si oppone al tetto sui bonus ai manager. Ne parleremo perché veniamo naturalmente dal referendum svizzero che tra le altre cose ha dato maggior potere all'assemblea degli azionisti proprio su questi temi e ha introdotto naturalmente l'elemento di dibattito, ma anche perché, ve lo dico molto francamente, a mio giudizio il modo di procedere in questo momento dell'Unione Europea, la norma che si sta immaginando è forse il modo più stupido di affrontare la cosa, perché prevede sostanzialmente un cap, un tetto che è pari allo stipendio, al massimo due volte lo stipendio, e le obiezioni di Londra, che protegge certamente gli interessi della City da questo lato, sono sensate perché, dice, in questo modo si deresponsabilizza il banchiere e c'è tra l'altro il rischio di ritocchi al rialzo per la componente fissa dello stipendio. Forse la cosa si potrebbe affrontare in un altro modo, per esempio cambiando il governo delle aziende. Ne parleremo tra poco, ma prima la politica nel tunnel, come sapete, è il sottotitolo che diamo a 24 mattino, a 9 in punto in questi giorni, per fare un punto iniziale proprio sulla politica. L'attenzione è tutta concentrata sul Partito Democratico. Fra poco meno di 45 minuti inizierà la direzione nazionale del PD. Tra l'altro in diretta streaming, quindi la potranno seguire tutti, dove al centro naturalmente c'è la questione della formazione del nuovo governo. Dunque io saluto Arturo Parisi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, lei non parteciperà più alla direzione, non ne fa più parte o non ne partecipa, Parisi? Sarei membro di diritto in quanto ministro nell'ultimo governo Prodi, prima appunto della definizione dell'attuale statuto. Onestamente è una norma contro la quale avrei fatto io stesso ricorso, perché mi sembra assolutamente, come dire, discutibile che i membri di un governo, non tanto l'ultimo governo ma addirittura del governo Prodi, siano come trasformati in lord permanenti in una direzione che viceversa dovrebbe fondare la sua composizione in una legittimazione politica. Legittimazione politica democratica. Lei ha scritto l'altro giorno sull'Unità: guai se qualcuno pensasse che ad uscire sconfitta dal voto sia stata la persona di Bersani e non invece la linea del PD. Ancor peggio se qualcuno pensasse che su questa linea il partito disponga di un segretario migliore di lui. Quindi il problema è la linea, evidentemente, non è il segretario. Direi ancor prima l'idea di democrazia che guida il PD, una democrazia che riconosce il primato e il protagonismo ai partiti, direi quasi prima ancora che ai cittadini, quella democrazia che appunto è in questo momento al centro del confronto e direi per alcuni versi dello scontro, a causa degli umori e delle voci che si alzano alla piazza, quelle stesse di cui si è fatto portatore e rappresentante il Movimento 5 Stelle. Ma va inseguito questo grillo come si propone Bersani o lei ritiene che siano necessarie altre soluzioni? Ma io nel tempo ho sostenuto che andava preceduto più che inseguito, ma preceduto con un passo lento, invece si è preferito eccitarlo, correre avanti a un cagnolino che man mano che vedeva l'inseguito allungare il passo si eccitava sempre più e col tempo il cagnolino si è trasformato in un bulldog, nel senso che appunto l'inseguito moltiplicava le parole e divideva e riduceva i fatti. E tutto questo è il problema di questi anni, la come vellicare da una parte questa domanda di democrazia diretta e dall'altra tradirla, direi raggirarla, truffarla con fatti non conseguiti o addirittura di segno opposto. Non ho capito una cosa, Parisi. Secondo lei, a questo punto, sconfitta la linea della quale Bersani è, come dice lei stesso, il miglior interprete, il segretario però si dovrebbe dimettere, secondo logica conseguenza di tutto questo? Beh, innanzitutto dovrebbe essere riconosciuta che all'origine, ed è questo il problema che io ponevo nell'articolo pubblicato ieri sull'Unità, che all'origine della sconfitta elettorale sta la sconfitta politica, che la sconfitta politica sia la sconfitta della linea. Invece quello che temo e che appunto paventavo è che in corridoio piuttosto che in assemblea, secondo la tradizione ormai consolidata che vede le assemblee, le direzioni, gli organi collettivi concludersi con un voto anonimo, gli umori si rivolgano contro il Bersani, contro chi guida in questo momento il partito, logorandolo piuttosto che affrontarlo in modo chiaro, nitido, aprendo o riaprendo quegli interrogativi che ancora non hanno avuto risposta. Ma umori o meno, si dovrebbe dimettere secondo lei a questo punto Bersani? Beh, ma si dovrebbe dimettere nella misura in cui primo si riconosca la sconfitta prima e secondo se ne riconosca l'origine. Onestamente in questo caso personalmente ritengo che il partito ancora non ha avuto il coraggio né di riconoscere la sconfitta e neppure di riconoscerne l'origine. C'è chi ha letto la visita di Renzi a Monti avvenuta ieri, poi abbiamo sentito le parole di Renzi ieri sera a Ballarò, come una vera e propria provocazione a Bersani. Lei come l'ha letta? Ha aperto gli interrogativi che attendono risposta, perché Renzi ha definito questo incontro come un incontro di natura istituzionale, essendo lui un sindaco sarebbe un incontro tra un sindaco di una delle nostre più importanti città e il Presidente del Consiglio. Nella misura in cui fosse viceversa un incontro politico, evidentemente dovrebbe essere spiegato meglio, cosa che al momento Renzi non ha fatto. Ultima domanda e le chiedo di essere netto. Come se ne esce? Come se ne esce? Accordo con Grillo? Posto che l'accordo con Grillo mi sembra molto difficile a questo punto. Insomma, il bulldog che lei citava prima è già bello che è scappato, è andato avanti e ha detto che non ne vuole sapere. Insomma, come se ne esce? Ma io credo che bisogna prendere atto della posizione delle singole parti, delle minoranze che si confrontano in Parlamento. Da questo punto di vista le scelte e le alternative sono evidenti. Nella misura in cui si pensa a un governo politico non può essere che di minoranza, e se di minoranza inevitabilmente è un governo affidato alla minoranza meno piccola, che in questo caso sono i progressisti e il PD più precisamente, e quindi inevitabilmente guidato da Bersani. Se viceversa si punta a un governo di maggioranza che cerca e trova la sua maggioranza in Parlamento, non può essere che un governo tecnico, istituzionale, del Presidente, ci sono varie formule, guidato inevitabilmente da una personalità che è al di fuori del conflitto. Ma lei lo sfiderebbe Grillo? Diamogli il mandato, vediamo che cosa fa? Ma queste non sono scelte, non siamo in un gioco di società. Inevitabilmente bisogna seguire e rispettare il mandato degli elettori, perciò ho individuato nell'eventuale governo di minoranza come unica possibilità la guida di Bersani, almeno nella fase esplorativa. Peraltro il primo a rispondere no alla fine sarebbe Grillo, perché in qualche modo sa di essere guidato da un mandato che non è immediatamente un mandato di governo e quindi avrebbe bisogno di sottoporlo a una verifica della quale ancora non dispone. Grazie Arturo Parisi, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. E noi veniamo al tema di oggi, che come si diceva sono i bonus ai manager dopo appunto il rinvio arrivato ieri da parte dell'Unione Europea a questo tetto che è un tetto che prevede che non venga assegnato un bonus ai banchieri superiore a una volta lo stipendio, massimo due volte lo stipendio, nel caso lo decida l'Assemblea degli azionisti. Saluto Danino Barbi, segretario confederale della CGIL, buongiorno. Buongiorno, saluto a voi, buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. E buongiorno a Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager. Buongiorno a tutti. C'è anche chi la pensa in maniera estrema e rappresenta un ampio numero di elettori a questo punto, sentiamo. Questo non c'entra sinistra e destra, non c'entra, e questo fatto deve finire perché adesso, in questo momento, non è Grillo che vi dice queste cose, lo dice la Svizzera, da Milano. In questo momento, grazie, stappala, ma quella di prima andava bene, grazie, non stappate 8 bottiglie, poi facciamo gli ecologisti. Poi tutta plastica, che figura di merda stiamo facendo? Ragazzi, allora, io non so se li voto, ve lo dico. Allora, in questo momento in Svizzera stanno facendo un referendum per tagliare la forbice dei grandi manager rispetto agli impiegati e agli operai. Allora, pensate che in Microsoft, oppure in Buffett, che è una multinazionale del primo uomo più ricco del mondo, oppure la Mitsubishi, il divario tra l'operaio e il manager è 1 a 13, cioè il manager guadagna solo 13 volte la paga minima del proprio operaio impiegato, 1 a 13 nelle grandi multinazionali. Da noi questo divario è da 150 volte a 1500 volte. Allora, Unicredit e FIA guadagnano 1500 volte il proprio impiegato e il proprio operaio. Questa cosa deve finire immediatamente. Noi faremo una forbice 1-12, non puoi guadagnare più di 12 volte la paga minima del tuo impiegato o dell'operaio. Sta venendo fuori in tutto il mondo questa cosa qua, è pazzesco. Danino Barbi, dunque, segretario confederale della CGIL, voglio partire da qua. Che cosa le pare di quest'idea di Grillo? 12 volte un manager non può guadagnare più di 12 volte quello che guadagna il suo operaio. Suppongo si riferisca allo stipendio medio, anche se siamo un po' nella vaghezza da comizio. Dunque, allora, io penso che bisogna dire con chiarezza. E purtroppo devo dire che, per esempio, questo tema, su questo punto Grillo ha ragione. Questo tema, in molta parte del resto della campagna politica che c'è stata, anche del centro-sinistra, non è stato totalmente ignorato, ed è vero che invece è un tema che si impone in tutto il mondo. Perché si impone in tutto il mondo? Per un fatto molto ovvio, cioè i dati reali sono un po' diversi da quelli che dice Grillo. Allora, all'inizio degli anni Ottanta nell'industria il rapporto era circa 1 a 40 tra, diciamo, l'amministratore delegato e l'operaio medio, all'inizio degli anni Ottanta. Oggi quei rapporti medi sono circa 1 a 1000 nell'industria. Nella finanza americana, nelle cinque grandi sorelle, cioè le cinque grandi banche di risparmio e d'affari americane, questo rapporto era all'inizio degli anni 80 1 a 100, oggi è 1 a 20.000 fra l'impiegato medio delle grandi banche americane e, diciamo, il capo esecutivo, traducendo il termine alla terminologia inglese, cioè l'amministratore delegato, come diremo noi. Ora, questo fenomeno in sé è un fenomeno ormai incompatibile, secondo me. Cioè, non ha più niente a che vedere con nulla di umanamente misurabile. Questo voglio dire, cioè, non è pagare il merito, né pagare le responsabilità. È un potere che si autoalimenta e autodecide il potere sociale e finanziario, attraverso il suo valore monetario, che vuole avere nel mondo. Sembra deciderlo da solo, non è un parametro. Non ha una logica, nessuno può sostenere che c'è una persona 20.000 volte più capace di un'altra persona umana. Questo mi riferisco a studi neuroscientifici. Allora, c'è un problema di questa natura in tutti i paesi avanzati, e difatti, in modi diversi, questo problema lo stanno affrontando dal Congresso americano al referendum svizzero alla Commissione europea, quindi è un problema che c'è. Poi bisogna discutere delle soluzioni, che sono soluzioni che è un altro discorso ancora. Adesso ci vogliamo dopo. Però è sicuro che il problema è sfuggito di mano. Ha creato un'immagine, vorrei chiarire questo punto, su cui punto onestamente io penso che in un modo, diciamo, in un modo sbagliato, però c'è un ragionamento di fondo che io condivido, cioè si è creata una rappresentazione sociale, perché queste differenze hanno a che vedere con un'immagine generale della società, non hanno a che vedere con l'immagine aziendale, hanno a che vedere proprio con un'idea della società. Questa idea della società non solo è sbagliata, è quell'idea che ha portato la grande crisi che ancora stiamo vivendo, per essere chiari, ed è un'idea intollerabile secondo me di società. Le ho detto prima come la vedo sotto un filo proprio antropologico. Non si può sostenere che la differenza di una 20.000 sia una differenza che ha qualche base logica accettabile. Quindi vanno ridotte. Sì. Come farlo è una discussione che va fatta con intelligenza. E di quello voglio parlare, perché, ripeto, come ho detto in apertura, secondo me quello a cui sta pensando l'Unione Europea in questo momento, secondo me, è un metodo abbastanza stupido. Insomma, si può intervenire su altri fronti, per esempio il governo delle società, come ha fatto la Svizzera, un intervento più forte dell'assemblea degli azionisti rispetto al consiglio d'amministrazione proprio sulle paghe dei manager, ma imporre un tetto di quel tipo rischia di essere dannoso. Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager. Quello che dice Barbie, se i numeri lo sono effettivamente, sono quelli che ha dato Barbie, qualcosa va fatto da questo lato. Ma guardi, io la sorprenderò. Prima ancora di Grillo, quasi 3-4 anni fa, noi abbiamo preso posizione pubblica per stigmatizzare questo fenomeno. Lo abbiamo condannato, l'abbiamo giudicato una esasperazione poco comprensibile. Proprio in queste ore noi stiamo riflettendo su queste tematiche e riteniamo che un argine vada posto a questo fenomeno. Non pensiamo che la soluzione giusta sia farlo attraverso leggi, norme e regolamenti esterni al sistema delle imprese. Penso che le imprese debbano trovare la forza per autoregolamentarsi. Come? Certamente attribuendo più ruoli, più poteri all'assemblea degli azionisti, poi attribuendo ai comitati di remunerazione, composti da persone competenti e non appiattite sui voleri dei grandi capi, la possibilità di definire sistemi di retribuzione e di incentivazione che siano trasparenti, effettivamente misurabili e giocati sul medio-lungo periodo, perché il problema che abbiamo è che spesso i sistemi di remunerazione e di incentivazione sono giocati sul brevissimo periodo e quindi inducono il top manager a comportamenti che stressano l'azienda, giocati su risultati di brevissimo respiro, e questo non fa bene all'azienda. Noi dobbiamo recuperare senso di responsabilità, misura, sobrietà, senso etico. Questo a vantaggio proprio dell'immagine stessa del manager, che oggi è percepito in maniera sbagliata come una casta, una sorta di casta, e non lo siamo, autoreferenziale, che si autoremunera a prescindere dai risultati. Questo per noi è inaccettabile. Devo dirle, Ambrogioni, le confesso la mia perplessità di fronte all'idea che le aziende si autoregolino su questo fronte, soprattutto se non si cambiano determinate regole di governo delle stesse società. 9 in punto. Iniziamo con gli ascoltatori. Sentiamo Carlo che ci chiama da Bergamo. Buongiorno. Thank you. Bye. Prego. Carlo? Sì, eccomi qua. Eccolo. Prego. Allora, buongiorno. Io sono un manager, sono stato retribuito sia retribuzione variabile legata ai risultati, intendo che no. Devo dire che dal mio punto di vista io sono assolutamente contrario a fissare un tetto massimo alle retribuzioni dei manager, e ritengo che quando non sono legati ai risultati di solito è semplicemente perché l'istituzione o l'azienda che ti retribuisce ha un tale beneficio dalla tua performance che ritiene non conveniente dividerlo con te in termini proporzionali. Tutto qua. Sentiamo Paolo dalla provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Il discorso secondo me è semplice e complicato nello stesso tempo, perché comunque un'azienda dovrebbe sempre avere la priorità di decidere se un manager ha lavorato bene, non ci sono problemi a dargli dei soldi, cioè perché porta comunque un beneficio a tutti, dal primo operaio all'ultimo, cosa che ad esempio nel Parlamento italiano non è avvenuta. Non è il problema che prendono i 20-30 mila euro al mese, è il fatto che non hanno fatto nulla, questi signori dovrebbero andare tutti a casa, cioè se ci fosse un direttore serio le direbbe andatevene perché non avete fatto il vostro lavoro. Tutto lì, il problema è questo, ci sono dirigenti d'azienda che messi a una fresa ti insegnano a lavorare, ad esempio, benché siano dirigenti. Il problema è un altro, è che quando questi signori vanno in pensione che bisogna mettere un tetto, perché ciò che hanno guadagnato prima ha dato una resa all'azienda. Dopo bisognerebbe mettere un tetto, non necessariamente estremamente basso, ma io penso che sui 4-5 mila euro e non magari i 10-12 mila o i 30 mila, e lì ritorniamo al discorso dei politici, persone come, non faccio cognomi, Amato, che si prende 32 mila e 31 mila euro, ma io vorrei sapere che cavolo ha fatto per l'Italia, praticamente nulla. E poi lì bisognerebbe andare a vedere cose che non se ne parla mai, che all'estero invece parlano, come i casi Bilderberg, e lì usciamo un po' vabbè, dal tema. Vabbè, Margin. Insomma, Paolo, non entriamo nel giro complotti internazionali, per gentilezza. Danilo Barbi, i due ascoltatori mi sembra che abbiano messo in evidenza un punto centrale per certi aspetti. Insomma, queste sono aziende private e fanno come gli pare, insomma, mettere un tetto per legge sarebbe sbagliato. Ambrogioni dall'altra parte dice le aziende si devono autoregolare, devono imparare ad autoregolarsi. Ripeto la mia perplessità, perché se non l'hanno fatto in questi anni, come ci scrive qualche ascoltatore su Twitter, ve lo ricordo, l'hashtag è 9 in punto, mi sembra difficile che riescano a farlo nei prossimi, a meno che non cambi le regole di governo delle società, in particolare delle società quotate. Però nella discussione anche degli ascoltatori c'era una confusione concettuale, essendo loro dei miei manager, francamente gravissima, mi deve perdonare, perché la discussione sta prendendo soprattutto la questione dei bonus, cioè della cosiddetta erogazioni variabili. Ma il tema essenziale. Aspetti un attimo, vorrei chiarire un punto chiave, perché una cosa che prima veniva detta dal rappresentante del Federal Manager, per esempio, io la condivido, cioè qui non c'è un dettaglio di posizione sindacale, ma c'è una riflessione che coinvolge una parte degli economisti critici nel mondo. Allora, perché il discorso che facevano quegli ascoltatori che hanno parlato riguarderebbero concettualmente la retribuzione nel loro complesso, come senso, quanto uno guadagna. Non stiamo parlando di questo esattamente, si sta parlando di come sono costruiti i bonus. E del fatto che non è affatto vero che i bonus sono un problema della società privata. Posso fare un esempio? Vogliamo parlare dei bonus dell'amministratore delegato della Lehman Brothers? Perché l'amministratore delegato della Lehman Brothers, che era una società privata, nel suo fallimento privato ha creato un cataclisma mondiale pubblico, giusto? Quindi questo concetto che le imprese private sono una cosa solo privata, allora ci vogliono delle leggi che non si possono salvare mai, ma allora il discorso si complica, perché se una banca di risparmio e anche una banca che fa speculazione finanziaria e fallisce, come la Lehman Brothers, che aveva i conti correnti di qualcosa come 38 milioni di americani, se lei falliva per speculazioni finanziarie, tutti quei correntisti venivano azzerati i loro risparmi. Non so se mi spiego, il mondo è un sì, po' più è vero complesso anche, di così. Ha ragione, allora, Barbi, la fermo un attimo, ha ragione in linea generale. È vero anche dall'altra parte che si può dire che se un manager crea un elevato valore per gli azionisti e riesce a far guadagnare tanto la società quanto quelli che sono sotto, quanto anche il resto della società, perché se un'azienda va bene ne beneficiano tutti, e lei che è un sindacalista lo sa e me lo insegna, per così dire, i soldi li merita, magari anche dei bonus notevoli, no? Aspetti un attimo, non tutte le imprese sono uguali per la società, questo voglio dire. Una cosa sono le grandi banche, una cosa sono le grandi imprese strategiche che hanno un indotto di un certo tipo o di un altro, non è tutto uguale, cioè è una cosa più complessa. Io la cosa che vorrei dire è questo, io sono molto d'accordo su un punto che diceva Federmanager. Il problema, secondo me, principale, poi ce ne sono tanti altri, ma è un'altra discussione o tante altre discussioni. Se parliamo di bonus, cioè la commissione, perché la commissione parla del rapporto fra bonus e retribuzione fissa, e fa una proposta, tecnicamente anch'io ho molti dubbi, ne capisco l'ispirazione ma la tecnica non mi convince, preferirei un'altra proposta, però qui invece dissento da Federmanager, perché penso che questa debba essere oltre certi livelli una regola e non solo una, diciamo, possibilità delle imprese, un'autoregolamentazione. Io penso che bisogna evitare per legge che i bonus siano legati a rendimenti a breve periodo, perché i rendimenti di breve periodo sono un indicatore economico sbagliato, irrazionale. Sono irrazionale, tant'è vero che, ed è lì che è nato il problema, nel mondo finanziario e bancario, perché, qual è stato uno dei motivi della grande volatilità costruita? Che i manager moltiplicavano, diciamo, i fatturati nominali, perché nella finanza di oggi calcoli quelli, non riesci a calcolare i valori reali di un mondo finanziario costruito sui derivati e su decine di migliaia di operazioni finanziarie al giorno, non so se è chiaro, tant'è vero che esistono, come noti, bilanci ombra che sono 25.000 volte, alcune volte più grandi di quelli ufficiali. Allora, il problema è che il bonus deve essere legato a prestazioni reali, ma di medio periodo. Non di breve, Barbie, ho capito, e mi sembra tra l'altro che Ambrogioni stesse dicendo più o meno la stessa cosa, a prescindere dal prevederlo dal punto di vista legislativo oppure no, insomma, no? Esattamente, proprio questa è la logica. E tutto questo, intanto vorrei dire una cosa, stiamo entrando in una fase storica diversa da quella di cui stiamo commentando, cioè il sistema sociale ha capito che certe ubriacature sono figlie di un passato che forse non tornerà più, si spera non torni più. Le imprese industriali, quelle che io rappresento, hanno questa percezione molto forte. Bisogna introdurre sistemi più trasparenti, più etici, più sobri, e dobbiamo assolutamente fare in modo che questo grande sforzo del creare valore si rifletta su tutta la catena del lavoro, cioè dobbiamo introdurre modelli partecipativi, di coinvolgimento, di trasparenza. Quello che è avvenuto qualche settimana fa in Germania è illuminante, sono stati gli stessi lavoratori di fatto a riconoscere al loro capo azienda un bonus perché ha lavorato bene, quindi significa che se c'è questo valore della trasparenza, del coinvolgimento, della partecipazione, del senso di appartenenza, il lavoro di un bravo manager viene riconosciuto e non è percepito come un privilegio o qualcosa di simile. Ci scrivete un po' di cose su Twitter, Massimiliano. Il problema non è il tetto, ma la distanza tra operaio e manager. La produttività va distribuita equamente non solo ai manager. Ruggero, previsioni ex ante, valutazioni ex post, stipendi proporzionali ai guadagni dell'azienda. Fisso più, meno variabili, tanto per i manager quanto per gli operai. Ci scrive Raffaello, vogliamo parlare anche di manager pubblici, e quello è un altro punto dolente, storie che potremmo raccontare all'infinito, come quelle degli amministratori di Alitalia che hanno beccato, come sapete, buonuscite straordinarie. Andrea ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, infatti l'ha fatta anche la premessa, io sono un autistrada che faccio parte di un'azienda municipalizzata, della costellazione di aziende che fanno parte, cioè nel senso di un altro ramo. In ADAC l'ha pubblicato da Trano, ex amministratore delegato, in ADAC i primi 100 dirigenti costano 14 milioni di euro l'anno, per un'azienda che versa in condizioni critiche. E questi parte di questo è anche un contratto indeterminato, una cosa veramente allucinante. Allora lì, se c'è il capitale pubblico, secondo me andrebbe ci dovrebbe capire per mezzo di legge, perché è una cosa inaudita, anzi per far sì che questa gente rimane lì, noi abbiamo fatto un piano industriale che non permette di assumere autisti e quindi macchinisti fino al 2015, una cosa veramente. Ho capito Andrea, è chiarissimo. Voglio sentire anche Alessandro, che ci chiama sempre da Roma. Buongiorno. Salve, buona giornata. Guardi, io lavoro nel settore pubblico, sono in aeronautica. Sì. Guardi, la mia considerazione è la seguente: io sto cercando casa in una zona di Roma. Praticamente sono andato a vedere i prezzi di una casa dopo essermi accertato di poter avere il mutuo. E mi ha detto l'agente immobiliare: guardi, come lei ce n'è tanta di gente che cerca l'appartamento, si figuri che una signora per questo prezzo ne ha presi 3. Io mi sono messo a ridere, ma questi sono i mostri creati da questi bonus allucinanti, e secondo me che sono legali fin quando sono certificati. E poi un'altra considerazione, mi permetta. Prego. È vero che i dirigenti non fanno parte di una casta, però dipende, quando sono messi lì dalla politica sono parte della cassa anche loro. Ed è il tema che suggeriva in parte. Grazie. Anche Andrea da Roma, prima l'autista dell'ATAC, che è l'azienda dei trasporti pubblici romana, che diceva sostanzialmente proprio questo. Voglio sentire anche Mario da Perugia, breve, poi abbiamo la viabilità e poi voglio risentire Barbi e Ambrogioni. Prego Mario, buongiorno. Buongiorno, sarò brevissimo. Io sono contrario al tetto per i manager delle aziende private, mentre sarei favorevolissimo a un tetto per i manager pubblici, dove per pubblici si intende anche tutte le aziende che in qualche modo ricevono aiuti dallo Stato. Per esempio, un esempio banale, lo capisco, la Fiat, che chiede cassa integrazione straordinaria incidendo sul welfare per 2 anni, e Marchionne che si mette in tasca da stipendio e stock option 17 milioni d'euro. Queste sono cose che non sono più, sì, proprio a dire il vero. Al dire il vero, qualcosina di più, il premio in azioni gratuite di Marchionne è stato di una cinquantina di milioni lordi, oltre allo stipendio, e poi altre azioni gratuite per 9 milioni. E però mi sembra che il tema stia virando abbastanza anche sulle aziende pubbliche. Ci scrive anche Massi su Twitter: parliamo piuttosto di manager deresponsabilizzati delle varie aziende a partecipazione comunale eccetera in mega deficit. L'ATAC è un esempio. 9 in punto. Francesco Cantini, che ci scrive su Twitter: servono a qualcosa i top manager, casta inutile, le aziende si governino con le loro risorse. Adesso Francesco non esageriamo, persino le cooperative hanno dei top manager, insomma, quando superano un certo livello. Voglio risentire Barbi e Ambrogioni su quest'ultimo giro di telefonate, che si sono concentrate molto in realtà sugli stipendi dei manager pubblici. Abbiamo un po' virato la discussione, però vedo che sta diventando calda su questo fronte. Barbi? No, io sono d'accordo, sono molto d'accordo. Penso ci bisogna fare 2 cose diverse. Nei manager pubblici ci vogliono proprio dei veri e propri tetti complessivi, perché adesso sono soldi pubblici, sono soldi di tutti, quindi io sono lì proprio per una cosa molto rigida. Penso che quelle private, come si diceva prima, ci voglia una regolamentazione che, come si diceva, fissi soprattutto la parte variabile a, diciamo, rendimenti di medio e lungo periodo. Queste secondo me sarebbero 2 cose ottime da fare. Ambrogioni, lei sui manager pubblici come la vede? Perché poi c'è anche l'altra osservazione che si può fare, che si fa sempre in questi casi, poi però ti ritrovi quelli che sì, insomma, non sono un granché bravi a... Noi abbiamo il caso Moretti, faccio un esempio, di un bravo manager pubblico che sta facendo un miracolo, sta risanando e rilanciando un'azienda che si pensava non potesse essere messa sul mercato in certi modi. Io non penso che anche in queste aziende debba essere messo un tetto, anche qui c'è un problema di automisurazione. Ma io vorrei stare su un tema centrale toccato da alcuni radioascoltatori: la qualità, la selezione, la formazione e la remunerazione dei manager pubblici. noi possiamo toccare questo tema solo se la politica la smette di lottizzare queste posizioni. I casi toccati di ATAC o di aziende municipalizzate è emblematico, è mortificante per dei brevi manager intermedi vedersi sempre superati, surclassati, schiacciati verso il basso da posizioni occupate da dirigenti tra virgolette politici. Questo è un tema da mettere in agenda e da risolvere in maniera definitiva. Sì, è un tema sicuramente sul quale dovremo tornare da questi microfoni, ne abbiamo parlato sotto altri aspetti, in particolare nell'aspetto toccando il tema della sanità, però naturalmente è un tema sul quale bisogna tornare e sul quale bisogna continuare a tenere gli occhi, perché è uno, almeno a mio giudizio, uno dei grandi blocchi di questo paese. Fabrizio ci chiama da Chieti, buongiorno. Salve, buongiorno. Niente, io non sono d'accordo su questo aumento di stipendi dei manager, perché così facendo stiamo togliendo liquidità, denaro alla massa, quindi l'economia è in mano a pochissime persone, quindi ecco che tutto l'economia nazionale viene rallentata. Purtroppo più andiamo avanti e mi sembra di vivere quei film dove in Francia c'è stata la rivoluzione contro i nobili, cioè prima o poi la massa si ribellerà contro questi che governano il mondo, diciamo, con il loro potere economico. Non è possibile andare avanti, è una diseguaglianza troppo alta. Gabriele ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Io la vedo difficile porre un tetto ai salari dei manager, punterei di più l'attenzione su legare preventivamente i bonus dei manager a quelli dei dipendenti. C'è un altro ascoltatore, tra l'altro, che ce la scrive questa cosa, sempre su Twitter con l'hashtag 9 in punto, Enrico Bruno dice: perché non si legano gli stipendi dei manager a quelli degli operai? Si possono aumentare i manager solo se si aumenta quello dell'operaio. Barbie, lei come la vedrebbe? Immagino bene una cosa di questo genere. Beh, anche questa è una forma di regolamentazione interessante, si potrebbe sperimentare. Da qualche parte, per esempio, esistono già forme di questo tipo, per esempio, non so, nell'industria automobilistica svedese, la Volvo, una buona parte, per dirlo con precisione, da quello che so, del stipendio variabile dei manager è legato alla media degli stipendi dei lavoratori, effettivamente. Quindi esistono anche forme di questo tipo, sono molto proprie nell'industria, più complesse in altre situazioni, però anche questa è una buona provocazione. Però la cosa che diceva l'ascoltatore prima, guardate che ha ragione, cioè con la cosa che ho detto prima, non esistono persone migliori mille volte di un'altra persona. Guardate che questa è una cosa che nella società sta producendo delle rotture, un rancore sociale enorme. Bisogna pagare il merito, ma ci vuole una certa ragionevolezza, una certa sobrietà anche. Non è che se uno, anche i manager pubblici, io sono d'accordo, qualcuno ha fatto l'esempio di Moretti, lo conosco, qualcuno sa che era un sindacalista della CGIL tanto tempo fa, ma d'accordo, ma se uno guadagna 30.000 euro al mese, 40.000, non è che debba guadagnare 400.000, non so come posso spiegarmi. Cioè, ecco, ci vuole una proporzione, sì, tra chi manda avanti tutto e chi dirige. Barbie, quando Barbie, qualcuno diceva la rivoluzione francese, capisco il senso, perché ci vuole una proporzione, e oggi questa proporzione non c'è più e bisogna discutere pubblicamente come stiamo facendo. Come stiamo facendo a tutti gli effetti. Ambrogioni, le lascio la chiusura a un 30 secondi, veramente pochissimo. Ma guardi, intanto mi ha fatto molto piacere che questo tema sia stato affrontato, perché è centrale in questa fase storica del nostro paese. Come categoria noi da sempre auspichiamo ritorni alla sobrietà, a un maggior equilibrio tra retribuzioni del mondo del lavoro di massa, diciamo così, e dei grandi capi azienda. Concordo da questo punto di vista. Quello che conta è aggancio delle retribuzioni e dei bonus in certa misura ai veri risultati nel medio-lungo periodo, ci vuole più partecipazione, più coinvolgimento e una selezione veramente meritocratica, sul valore merito vero dei manager. Grazie, grazie a Giorgio Ambrogioni di Federmanager, Danilo Barbi della CGIL, grazie a Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, telefonato e scritto su Twitter, se volete mi trovate anche là, Simone Spezia, ci sentiamo domani. Ah, naturalmente il saluto come sempre alle ragazze del centralino, Eleonora e Rosa, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. 9 in punto.